Ciao ragazzi, benvenuti a questa prima puntata di A Beautiful. Io sono Eric Stripparo. Io sono Alex Iacone. Questa è la pilota, puntata 0.0.0.0, nella quale cercheremo di capire come si fa un podcast. Alfa dell'alfa, e direttamente così, ti interrompo, salendo sulle tue scarpe, aggiungo Overlord e vediamo se ci crolliamo o no. Ciao Overlord, benvenuto in questo fantastico evento. Incredibile, aspetta, ma lui, io non l'ho sentito squillare, niente, così. Allora, la nuova versione di Skype ha semplicemente fatto sparire tutta l'interfaccia multiconferenza, cioè io vedo solamente Eric sulla mia, come se avessi solo lui, invece c'è Overlord dietro. Buonasera Overlord. Sì, buonasera, io vedo entrambi, quindi sarà un problema tuo, insomma. Overlord, posso solamente chiederti se per caso hai delle cuffie di metterle? Sì, ce l'ho già, ah, okay, quindi puoi dire buttale, quello che vuoi. Butta le tue cuffie. Allora, no. Noi abbiamo deciso questa sera di partire con questa nuovissima trasmissione che non si sapeva neanche fino a un'ora fa che esistesse. E abbiamo pensato di tirare fuori dei temi. Alex, correggimi se sbaglio. Stai registrando, Eric? Stiamo registrando tutto. Ok, tu registri perché io non registro. Non ti preoccupare. Ara. Volevamo parlare un po' di Android, dell'iPhone, dei problemi che ci sono perché manca Flash sull'iPhone, dei YouTube Awards, dei morti in Giappone. Questo qua è un tema del quale ancora non sappiamo molto. È il tema fantasma, direi. Il tema fantasma. Parleremo anche della nuova versione di Safari e chiederemo anche a Overlord di parlarci di un suo argomento a sorpresa, per presentarci un po' il suo sito. Non mi piacerebbe parlare anche ovviamente di Tibet, di boicottaggio di Olimpiadi. Ok. Che non è molto tech. Iniziamo da Overlord, perché poi dopo fra 5 minuti lo cacciamo, che lui deve andare a mangiare. Sì. Essendo di Napoli, a Napoli palesemente si mangia sempre in ritardo e quindi se non si fanno le 9:30 non si pappa, insomma. Il tuo sito è overlord.net? No, overlordonline.net e da poco anche scienzeblog.net, quindi due blog, uno scientifico e un altro prevalentemente tecnologico. È quello che piace a me, i blog. Sì. Uno di qua e uno di là, perfetto. Sì, meglio divisi. E Overlord detto anche? No, cioè, Overlord detto Overlord, mi chiamo Matteo, quindi... Okay. Dici... Raccontaci un po' cosa fai esattamente, presentati anche, perché io purtroppo non ti conosco, ci sono tantissimi ascoltatori che, pur essendo tu famosissimo, magari non ti conoscono. Fa famosissimo. Allora, io scrivo da circa un anno, ho iniziato nel marzo del 2007, quindi adesso abbiamo fatto appena un anno con overlordonline.net. Ovviamente ero un neofita della blogosfera, ho iniziato a bazzicare internet con il gaming online, e dal gaming online ho un'esperienza di circa 2 anni, quindi diciamo circa 3 anni che sto su internet. Per me la blogosfera è stata un'esperienza del tutto nuova, la possibilità anche di interfacciarmi con altre persone è una cosa molto stimolante. Qualcosa, il sito Overlord, dimmi. Matteo sarà uno degli ospiti abbastanza frequenti della trasmissione. So perché lo sento bene, lo sento, ragazzi. Sciolto, tranquillo e rilassato, come ci piace a noi. Sì. Non si è fatto prendere la sprovvista. No. Overlord Online tratta principalmente. Prima era, diciamo, uno zibaldone di idee, tutto quello che mi passava in testa ficcavo dentro il blog. Poi col tempo ho cominciato a scremare tutti gli argomenti e tratto principalmente di tecnologia. La novità sta che l'argomento scientifico adesso lo tratto su tutt'altro blog, su scienzeblog.net. Io sono laureato in scienze naturali e sto sviluppando la tesi della specialistica su comunicazione scientifica, che è un argomento in Italia del tutto nuovo, e voglio appunto applicare tutto quello che sto imparando sui libri sul blog. Quindi ovviamente scienzeblog.net rappresenta un esperimento al momento. È molto interessante, okay. Però poi usi per andare un attimo sullo specifico, usi tu, cioè sono sulla stessa piattaforma, carini, sì, con le belle tag. Entrambi su WordPress. Flock, per caso? Come? E usi Flock per postare, no? No, utilizzo Windows Live Writer, quindi un prodotto di casa Microsoft che non a tutti farà piacere, perché essendo casa Microsoft non gode di grandi simpatie, però io mi trovo bene e fa i fatti. Io ed Erika a Berlino al web 2.0 passato abbiamo assistito a una clamorosa presentazione di, cos'era, qualcosa, c'era questa ragazza che lavorava per Microsoft ancora ed era lì a fare delle riprese, ha fatto una presentazione, sia io che Alex eravamo a questa conferenza tra le varie che abbiamo seguito in quella giornata, in cui lei cercava di spiegare, molto carina anche lei, un po' manzo, qui cercava di spiegare come questa nuova interfaccia funzionasse, però non era Popfly. Esatto. Una cosa che praticamente, per rendere semplice la programmazione, cioè praticamente se tu non sei capace di programmare usi quello, però il fatto che ci lasciava un po' nel dubbio che era talmente complicata che praticamente se spendevi 2 minuti in più imparavi a programmare in pratica. Le cose semplici alla Microsoft. Ho lasciato Microsoft per Mac, comunque l'abbiamo bastonata purtroppo, ma non siamo dei razzisti, è solo che alla fine io penso che uno nella vita debba farsi un Mac a un certo punto. Sì, e poi il bello è che quando si è fatto il Mac non ti puoi neanche lamentare, perché io sono 3 giorni che ho il Mac che mi si inchioda, e adesso di questo ne discuteremo nel prossimo topic. Entriamo direttamente nella sezione in cui ci racconti gli YouTube Awards. Eric, ma l'hai visto il video del bambino che ride? Del bambino che ride, che è stato assolutamente una delle sorprese, trovo, di questi nuovi awards, la seconda volta che li fanno. Una delle cose che mi è piaciuta di più in realtà è stata che c'è stato questo ragazzo che ha cantato Chocolate Rain, che probabilmente... che lui ha vinto e se l'è meritato, perché veramente, anche se era molto impacciato, ha tirato che fuori, che parla con tutta una voce stronca, sì. Esatto. Poi respira fuori il microfono, ma quello va, Chocolate Train va, è nato qualche mese fa, veramente parecchio tempo fa, poi addirittura da YouTube qualche produttore l'ha contattato, gli hanno messo dietro il budget, ha fatto un video super spendaccione con un sacco di belle ragazze disnude, e adesso va così. Certo, no, ci sono state delle bellissime cose negli awards di YouTube. A parte Chocolate Train, trovo ci sia stato nella sezione Politics c'è stato un video incredibile che in realtà si chiama Stop the Clash of Civilizations di Avaaz.org, che è un video molto bello fatto con parecchie animazioni, nel quale si mettono a confronto la cultura occidentale e la cultura orientale, e nello specifico in realtà forse è meglio dire la cultura religiosa cristiana e quella musulmana, in cui in realtà si mette alla fine a confronto, si fa capire in realtà che le differenze non sono troppe. Questo link che vi passo adesso è il link ufficiale degli YouTube Awards 2007, che vi invito a visitare perché un paio di cose carine ci sono. Approfittiamo per salutare Matteo, che ringraziamo. Io lo scappo a mangiare. Buon appetito, cosa lo mangi? Guarda, dovrebbero essere, attenzione, te lo dico in napoletano, purpatielli affogati. Ah, fritti? Quindi... che sa, sì. Una cosa fritta? Sì, quindi vado, perché altrimenti si freddano, sì. E non riesco, e si rimangono sullo stomaco. Sì, perché poi è di sera, non è che è proprio il massimo. Ciao Matteo, è stato un piacere. Ciao Matteo, sì, grazie. Quando volete sapete dove contattarmi. Certo, poi mi dirai quello che mi dovevi dire, che io poi non te lo... Ok, non ti preoccupare, va bene, è stato un piacere. Ciao a tutti. Ciao Matteo, grazie. Allora, questo è stato il primo intervento di Matteo, primo intervento nel pilota, Alex, che ne dici, com'è andata? Il ragazzo è molto sciolto, è quello che mi piace, perché poi in realtà il bello di un podcast è che in realtà non esiste finché non lo metti a nessuna parte, quindi non hai fretta, dai, puoi editare, possiamo anche dire cazzo. Non sai neanche poi... di che cosa si stia parlando. Posso dire cazzo? Puoi dire anche però figa. Però poi tu mi metti un beep, per favore. Ma no, io lascio tutto incensurato. Che è il mio sogno. Però dobbiamo mettere rated su YouTube, iTunes, bisognerebbe mettere un rated... mettiamo un rated di quelli vietati ai minori, fichissimo. Ma no, ma ci mettiamo un bel beep, va. Dai, allora cazzo, ufficialmente. Ma passiamo al prossimo argomento, Alex. Io vorrei sapere un attimino cosa sono. Io vorrei parlare un attimino dei morti in Giappone. Ma i morti in Giappone li teniamo come. Io sono. Mi viene a chiedere scusa, però. Allora, i video di prima, dicevamo, dei YouTube Awards, vi ricordo, li potete trovare su wikio.it, dove nella sezione, sia in home page che nella sezione wikio.it/videos, sono indicizzati i video più linkati tra i blog facenti parte dell'indice di Wikio. Quindi ce ne sono molti, c'è We Are Not As Others, c'è quello del nuovo Partito Democratico, no? Sul tema dei YMCA, non so se l'hai visto, carino? Sì, l'ho visto, carino. C'è Italia rialzati a 90 gradi, un po' di video, insomma, stanno tutti lì, anche quello che ha linkato Wally del Grande Fratello. Io il Grande Fratello, ti assicuro, non ne ho visto un secondo, ma d'altronde ho buttato la televisione come te. Infatti, che vuoi fare? Io ho visto, mi è capitato di vedere un po' di, mai dire, Grande Fratello, però... Ma lo vedi tu in streaming, come lo vedi? Su YouTube, che vuoi fare? Alla fine... Ah, certo, su YouTube, quindi lo vedi a posteriori, ok. Perché il bello non è più il bello della diretta, non solo il bello della diretta, ma il bello della quasi diretta, le cose puoi vedertele poco dopo su YouTube o ascoltartele come in questo podcast, in qualsiasi momento dove sei adesso, successo a cagare oppure su pausa oppure sei in metropolitana e ci puoi ascoltare, mi dispiace. Esatto, anche perché in questo podcast è decisione così istantanea, in cui daremo degli indizi segreti per vincere un bel premio, nella migliore tradizione dei Mob Flash. E metteremo in premio tutti i gadget inutili che mi sono rimasti a casa, tra cui un... che c'ho che mi rimane a casa? Ah, c'ho un Nokia N-Gage, non sai, no. sta lì da anni, la prima versione del Nokia N-Gage con due giochi, attenzione. È uno dei pacchi più clamorosi della storia della Nokia. Ma sai cos'è? Che mi si era rotto un telefonino che avevo. Sono andato al negozio, ero in Francia in quel momento, e c'era, era appena uscita la versione 2 del Nokia N-Gage, e c'era la versione 1 che tipo me la tiravano dietro a 70-80 euro, una cosa così. All'epoca era, aveva comunque sia un SD, una scheda SD da aggiungere, le cuffie stereo, il Bluetooth, il visualizzatore di foto... Non è da malaccio, certo. Poi, appena rotte le cuffie, microfono, telefono da buttare, perché è una form factor incomprensibile. Più allora, questo nella questo sezione, però, potrebbe portare a introdurre un nuovo argomento, dicendo che Nokia è il Nokia è un concetto di telefono cellulare basato su una nanotecnologia della Nokia che si chiama Morph. Ah, quello che diventa tipo da polso, sta minchiata. Sì. E quale mi piacerebbe parlare in futuro, è un progetto abbastanza interessante, magari non oggi perché abbiamo già dei temi, però certo. Sarebbe da tenere. Sì, anche perché bisognerà aspettare che si cristallizza un po' per vedere se è uno solo un prototipo che non vedrà mai la luce o una di quelle cose che poi si cristallizza in qualcosa. Nella sezione high tech di Wikio, la serie che ci sponsorizza nel senso di direttamente, nel senso che paga il mio stipendio, uno dei miei stipendi, perché dovete sapere che io ne ho più di stipendi esistenti o non esistenti, ma altri anche in essere forse domani. Allora, io che ho fatto? Sono andato su iTech e ho ordinato le notizie per Top News, cioè tirando fuori quelle che hanno più voti. Allora, con 27 voti ho Giappone ideato un metodo per parlare con i morti. Allora, il titolo mi piace tantissimo, perché e ti assicuro, da un esatto, ideato un metodo per parlare con i morti, l'ho visto anche io, ci sono anche io. Ci sei? Sì, ci sono. Per fare una cosa seria, non fare come i giornalisti che non sanno di quello che stanno a parlare, io ho fatto solamente nello scritto il titolo e non ho letto la notizia, che quindi adesso vi leggo. La fantasia giapponese arriva anche al di là. Ishinonkoe, un produttore giapponese di lapidi, ha infatti ideato un metodo grazie al quale è possibile rimanere in contatto con i morti. All'interno delle lapidi viene posto infatti una sorta di codice a barre che, allegato al cellulare, permetterà ai parenti del defunto di scaricare foto e altre informazioni riguardanti la persona sepolta. Immaginavo che era una minchia del genere. Le lapidi saranno presto messe in vendita $10,000, per cui ci si può anche scaricare le cose dall'aldilà. Cioè, praticamente è una cornice di queste che vendono adesso, wifi, che tu ci metti le immagini davanti, dentro, sulla memory, e quella te le passa, no? Sì, è una cosa, okay. Deve essere una cosa del quindi genere. Vuol dire che praticamente tu prima di morire viene qualcuno che ti fa un video per dire, registra un messaggio, ma poi $10,000. Un pacco, beh, cioè, 10.000... a parte che adesso 10.000 dollari non sono neanche più tanti. Sì, e poi in Giappone sicuramente ci compri un paio di bruscolini con 10.000 dollari. Ma comunque, diciamo che se avete voglia di lasciare un messaggio ai posteri, è un'idea. È un'idea. Con 59 voti YouTube Awards abbiamo detto vince Harry Potter. Ma come stiamo? Al prossimo argomento, che è Android, per il quale abbiamo un ospite che adesso inviterai tu. Sì. Chi? Non lo so, tu che c'hai tra i tuoi adepti? Allora, beh, c'è il Conti che è in, c'è il Conti che è in, in consiglio comunale, non so che sta facendo, sta decidendo se no o no invadere la Mauritania. Il Lorenzo non partecipa, ma direi che ne possiamo parlare anche tra di noi. Nel senso che io Android, da quello che ho capito, correggimi se sbaglio, è una piattaforma comune su cui Google principalmente e una serie di costruttori di device di telefonia hanno deciso, dopo e qui già spiego la mia opinione in proposito, dopo 20 anni, 30 anni che si sono fatti la guerra tra di loro, di fare una piattaforma comune. Finalmente, tra l'altro è una piattaforma ovviamente di quelle quasi open source, per cui al contrario di tutte al contrario del lavoro che aveva fatto l'iPhone, la Apple quando è uscita con l'iPhone aveva bloccato l'SDK, che adesso sta sbloccando anche ai programmatori, Android sarà anche un sistema che permetterà assolutamente a tutti quanti di interagire e creare nuovi utility, per cui di farne uno strumento di quelli che saranno probabilmente molto innovativi. Adesso vedere se magari Android potesse essere integrato in una macchina virtuale su iPhone tra qualche tempo, potrebbe anche essere una cosa interessante. Ma guarda, secondo me Eric c'è stato un po' una specie di misunderstanding sul fatto che sia open source. Cioè sì, è open source, però poi di fatto nessuno vieta a qualcuno di come la Nokia di dire sì, ok, adesso però invece su questo telefonino decidiamo noi cosa ci si aggiunge in più o no. Cioè sinceramente è anche un po' il discorso che era stato fatto in Italia qualche tempo fa, adesso non so, c'è ancora sicuramente, c'è stata una compagnia telefonica che ha aperto un telefono con dei minuti gratis di Skype, per cui cercavano di far capire alla gente che uno poteva telefonare gratis da Skype, ma in realtà ti costringevano a comprare... Cos'era la 3? La 3, la Wind, una cosa del genere. Non lo so, io avevo evitato di dire il nome della compagnia telefonica apposta. Metti un beep, metti. La beep. In realtà non siamo neanche sicuri. Comunque una compagnia telefonica di questo tipo che ha fatto lo Skype Phone, una cosa incredibile, no? Che in realtà ti costringevano comunque a fare un contratto di 2 anni e pagargli soldi lo stesso. Per cui quelli sì, veramente nessuno ha il coraggio di fare veramente quello che questi fanatici, questi mitomani, questi fighetti dell'Apple, però poi in realtà ti hanno fatto, ti hanno dato un telefono che ha una flat dati illimitata, e guarda, non è poco, perché io ho un iPhone che ho sequestrato a qualcuno che veniva dagli Stati Uniti, e nonostante non abbia fatto il contratto, quindi l'ho sbloccato perché preferisco, viaggiando un po' più spesso, insomma. E però con l'abbondanza ormai del wifi aperto qui a Parigi, ti dirò che è veramente una bomba, è un'arma, cioè, quando ti serve ci sei, certo non è 3G, però boh, sinceramente 3G dai, arriva vabbè. Adesso infatti pare che ne abbiano ordinati 10 milioni di iPhone nuovi 3G a 400 giga finalmente. Poi anche lì dovrebbero dare la possibilità di mettere dentro la scheda, la SD card da 2 giga di estensione, se uno vuole, anche quella è una cazzata. Boh, non so, guarda, l'iPhone è sicuramente candidato a cambiare ogni 6 mesi, ogni anno, come tanti telefonini. Quindi, ma già anche sui laptop non è che ormai fanno più come una volta, che li cambiano 3 anni. Visto che abbiamo accennato all'open source e al mondo del software libero, io direi che possiamo provare a fare uno squillo a Nicola Greco di notsecurity.com, perché lui in teoria dovrebbe essere lì. Proviamo a aggiungerlo. Proviamo. E comunque dobbiamo ancora continuare a parlare di Android, perché alla fine siamo andati a finire a parlare ancora una volta di iPhone, perché è così. Ma perché è la parola più cercata dell'anno, incredibile. Sai cos'è il successo dell'iPhone? Il successo dell'iPhone è basato sull'insuccesso degli altri telefonini. Se Android mi fa un telefonino che permette a mia madre di potersi di poterlo usare senza dovermi chiamare ogni 3 secondi, beh, benvenuti. Benvenuti nel 2008, in cui l'user interface è la cosa più importante. Soprattutto nel momento in cui ci danno la banda libera. Certo. Che non vogliono ancora darci. A questo proposito vorrei ricordare comunque a tutti di diventare dei fantastici foneri e di farsi una fontana. Sì. Perché questa è una cosa che se qualcuno non lo sa è da fare. Una maniera per evitare di pagare internet quando si è in giro è di sottoscrivere, comprarsi una fontana e un phone per 35 euro. E sì, poi si trovano anche spesso occasioni per averla gratuitamente. Assolutamente. E poi comunque addirittura in Inghilterra la Fonero ha fatto una partnership con la BT, la British Telecom. E adesso... Sì, assolutamente, è una notizia enorme. Una puntata, promettiamo sin da ora che inviteremo a parlarci di Fonero a Stefano Vitta, che è il country manager di phone.com. o.it, insomma, della Fonera. Assolutamente. Nicola Greco ancora non risponde. Tu lo vedi squillare sul tuo Skype? Squillare, ma non risponde. Però io inviterei in questo momento comunque a cambiare argomento. Ritorneremo sull'open source tra breve, nel momento in cui ritorneremo con Nicola Greco, e parlerei di Safari 3.1. Bello. Che è un nuovo browser attualizzato, il browser della Apple, l'ultima versione attualizzata, che si spaccia come il browser più veloce del mondo. Con delle features nuovissime che dovrebbero semplificare, non ho ancora ben capito cosa. Quello che a me dispiace, ci sei Alex? Certo, sì, stavo guardando il mio Safari proprio in questo momento. Quello che mi sono reso conto è successo è che il Safari 3.1, come Safari 3.0, ha in realtà dei problemi enormi di caricamento spesso. Per quanto mi riguarda, non tutte le pagine funzionano, non tutte le pagine sono ottimizzate per Safari, e purtroppo ancora bisogna avere installato anche un altro software che è comunque fantastico, open source, che è Firefox, che tutti quanti amiamo. Sì, assolutamente, penso che i pro user di Mac hanno minimo 2-3 browser nel computer sempre. Assolutamente. Io ho Safari, ho Firefox uno accanto all'altro, ho Flock, ho Shira. E ogni tanto gioco pure con Opera. Opera era un bel browser, soprattutto per PC, devo dire, era veramente più veloce. Ma guarda che Safari quando funziona va benissimo. E, ho letto di uno degli sviluppatori di Firefox, quindi la Mozilla Foundation, che hanno detto che la nuova versione, che non so se hai notato, di Firefox è veramente più veloce rispetto a quella per Tiger, è perché sono riusciti a circuire alcuni blocchi che aveva messo l'Apple per far andare più lenti i browser degli altri. Questa è stata abbastanza abbastanza divertente. Poi quello che ha generato anche molta molta polemica è che praticamente Safari lo hanno messo in bundle con l'upgrade di iTunes. Sì, quindi un sacco di cosa un po' meschina. Sai cos'è? E per una volta i PC users, invece di prendersi in bundle un virus o uno spyware, si prendono una cosa di utile, no? Che dici? Sì, forse sì, finalmente. Però anche da dire la cosa curiosa, che di solito non vengono sottovalutate dall'Apple queste cose, è che nella licenza di Safari è specificato che non si può installare questo software al di là che di una macchina Macintosh, scusate, ogni tanto io vivo in Germania. Sì, ho letto questa notizia oggi, non so se sono geekissimo o da qualche altra parte. Però forse non hanno aggiornato le condizioni d'uso. Forse non hanno aggiornato le condizioni d'uso, però è comunque curiosa questa cosa, soprattutto pensando che Apple è sempre molto, ma molto attenta a queste cose. Sai, la notizia è di Melablog. Attorno al rilascio di Safari per Windows si sono sviluppate parecchie discussioni e polemiche, un po' per le caratteristiche prestazioni del browser di Cupertino, un po' per le politiche di distribuzione non cristalline. A tutto questo va aggiunto un nuovo e peculiare capitolo. Secondo la licenza di distribuzione di Safari, in teoria sarebbe possibile installare il software solo su hardware Apple. Il documento recita, infatti: "This license allows you to install and use one copy of the Apple Safari software on a single Apple labeled computer at a time." Letto in senso stretto, la possibilità di installare Safari su un computer non Apple non è nemmeno presa in considerazione. Notizia di Melablog di oggi, grandi ragazzi. E quindi, sì, praticamente quindi la notizia è questa, che praticamente la Apple sta per fare un computer a PC. Oppure sta per denunciare Windows per tutti gli utenti di Windows per aver installato illegalmente Safari. Ma in realtà... Guarda, secondo me la presentazione di Safari per PC era una mossa dedicata da una parte a far giocare con il browser Safari, che poi in realtà è lo stesso dell'iPhone, gli sviluppatori PC. Da una parte anche racimolare qualche soldino, e non è mai indifferente con la barra di Google all'interno di Safari, perché ogni volta Firefox guadagna con quella barra di ricerca. Sì, Forse potrebbe essere, e poi anche un po' per dire, se vi è piaciuto iTunes e vi è piaciuto Safari, allora passate a Mac. No? Comunque direi che siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Sì, abbiamo parlato di passare all'iPhone Flash, che dovrebbe accettare il Flash, ma speriamo. Speriamo che l'iPhone accetti il Flash prima o poi, ma ci arriverà. Io intanto comunque non sono neanche possessore di un iPhone, ma di un fantastico Q-Tech che funziona e fa il suo lavoro benissimo, devo dire. Ancora. Quindi lancerei il secondo concorso della trasmissione, regaliamo un iPhone ad Eric. Striparo, sarebbe una gran bella cosa, guarda. Quindi tutti gli AdSense che vedete in cui questo podcast è affogato, raccomando, cliccate, passate dai banner contestualizzati, comprate delle pillole Viagra tramite i banner di Eric, e arriveremo a comprargli un iPhone un giorno prima in cui esce il nuovo modello, sì, naturalmente. Adesso abbiamo ripescato a sorpresa Roberto e gli facciamo tre domande al buio per tre minuti. E lui deve rispondere molto velocemente. Prima domanda: chi sei? Sono Roberto Felter e gestisco il sito felter.it e il blog.felter.it. Qual è la notizia high tech che più ti ha colpito questa settimana? Nessuna, nel senso che non c'è una notizia particolare che mi ha particolarmente esaltato o meravigliato. Va bene, la notizia che più ti ha interessato negli ultimi due mesi? Sicuramente alcuni sviluppi sociali di alcuni software tipo Live di Yahoo. Ah sì, che è un gran successo, ogni notte vediamo dei bellissimi live in genere. Ti annuncio anche, visto che ti ho chiamato live, che insieme a Eric faremo un po' di puntate così, quindi rischierai di essere chiamato a sorpresa su argomenti al buio totalmente. Ti piace? Non c'è problema, al limite sono problemi vostri. Certo. Sì, assolutamente, diventeranno sicuramente problemi nostri. Hai sentito parlare dei morti in Giappone? Di morti in Giappone? Di lapidi parlanti. Lapidi parlanti in Giappone. C'è una notizia su wikio.it che mi è stata segnalata dal nostro caro Alex qua, che era divertentissima. Nella quale... Sì, in realtà sì, tu introduci. Che in realtà era una delle notizie più votate di high tech di Wikio. Sono 13 blog che ne parlano. Il blog di Clamos, hai sentito? Vabbè, che insomma non è un blog. Quomedia, Bit e Byte, ultimissima, Alessia, punto cellulare.it. Vabbè, dai. Ed è in realtà una notizia nella quale che fa sorridere, perché si possono scaricare commenti dall'aldilà. Praticamente è stato inventato un sistema tramite il quale nella lapide, tramite wifi, è possibile connettersi al cellulare del visitatore che viene a piangere, a compiangere il defunto, e vengono... Forse puoi lasciare i commenti sulla lapide, puoi fare un flame eterno. Cioè, sulla sua tomba. Sicuramente l'ha inventato uno che ha il problema del mio blog, che di commenti non ne lasciano, cerca di andarli a raccattare ovunque, ormai stiamo... Ah sì, ti commentano poco sul blog? Sì, probabilmente o mi danno tutti ragione, per cui non hanno motivo per dire sì è vero, oppure si divertono semplicemente a leggere. Ma io grazie Felter del tuo intervento. O volevi fargli un'altra domanda, Eric? No, io volevo solamente aggiungere una cosa, scusa se ti ho interrotto, ma io penso che in realtà questa cosa dei commenti non interessa veramente a tutti, a parecchi interessa solamente leggere, vedere le cose No, ma infatti gli ultimi due o tre post che ho fatto, se volevo potevo mettere qualche parola chiave o qualcosa che avrebbe attivato sicuramente molto di più l'attenzione, ma non è quello il motivo per cui li faccio, per cui io ho messo quello che volevo mettere e se qualcuno lo ha letto, bene, gli altri si sono persi qualcosa di interessante. Quindi ricordiamo il tuo blog, il tuo sito. blog.felter.it. Esatto, come Dvorak. Dvorakflashblog.com. Grazie, okay. Grazie Roberto. Grazie a voi, buona serata. Grazie, ciao, buona serata. E l'ultima cosa, ultimo annuncio, e poi vi salutiamo. Vogliamo che andiate a firmare la petizione per fermare le Olimpiadi e boicottare le Olimpiadi in Cina. C'è un sito dei Reporter Senza Frontiere, rsf.org, dove è possibile firmare una petizione. Andate a farlo perché è importantissimo. E se non volete andare a farlo, per favore, entrate in contatto con noi e diteci, spiegateci perché, perché... Oppure potete andare a lasciare un messaggio sulle vostre opinioni e quindi generare un bel flame video su altomic.com, per esempio, oppure un bel messaggino, un commento su erictripparo.com, oppure scrivete un articolo su wikio.it, oppure andate anche a farlo su cibialterati.com. Noi siamo Eric Stripparo, oppure andate a prendere la sassa dell'ambasciata di Cina, andate a fare anche quello. No, ma noi siamo pacifici, noi siamo pacifici. Ma dai, io direi che comunque sia questo, sì. Poi sai cos'è, potremmo invitare magari un paio di blog. Io adesso magari mi cerco su Wikio quelli che scrivono più spesso di politica estera, perché così noi ci teniamo umilmente ignoranti di questi argomenti, lasciamo parlare magari un... perché sai che ci sono, sì. C'è gente che scrive in italiano da lì. Assolutamente. Sono dei bei blog sulla Cina. Quindi io sono Alex. Io sono Eric. Vi saluto. Questa era la puntata 0.0.0.0 di A Beautiful. Nome di lavoro. A Beautiful. Sì, cerchiamo, scriveteci alla mail che troverete scritta da qualche parte, perché non abbiamo neanche quella, su un suggerimento di un nome che vi piace, facciamo tutto molto wiki, quindi come volete voi facciamo noi. E niente, ci sentiamo alla prossima, grazie per averci sofferto così tanto e... Ciao! Ciao, divertitevi, finite, tirate l'acqua dopo, ciao!